cerco sei tu. Faro da lontano rischiara il centro, e sopra quegli scogli c'è un bus. Carla guarda e pensa: non sei contento, dovresti fare un corso da su. Stavo rispondendo, ma in quel momento qualcuno butta giù una TV. Più in su, camminare in fretta per lo spavento, giurami che non devo più. Ghiaccio sulla sabbia e sul sentimento, spiagge private da auto blu.